nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 dedicato alle donne, ai temi del lavoro e puntigliosamente impegnato a sgretolare uno dei miti fregatura di questi ultimi decenni, il mito del multitasking, mito creato apposta per farci sentire inadeguate. Oggi comunque un altro mito cercheremo di sgretolarlo. Mito, diciamo la verità, è andata così per secoli che erano gli uomini cacciatori quelli che portavano a casa la preda, i breadwinner, come dicono gli americani. Ma qualcosa è cambiato anche su questo e oggi sono sempre più numerose le coppie in cui è lei che guadagna un po' o anche tanto di più di lui. Tutto questo non sempre va bene, può provocare tensioni in famiglia, oppure invece può essere una cosa che si vive bene. Di questo parleremo nella puntata che sta per cominciare. Di tutto questo vorrei sapere cosa pensa l'agente provocatore di questa settimana. Giornalista, scrittore, blogger, direttore di Il, uno dei magazine più curati nell'approfondimento culturale. Beh, insomma, buona domenica e benvenuto a Christian Rocca. Grazie, buona domenica a voi. Ecco, secondo una ricerca che arriva dalla prestigiosa Booth School of Business dell'Università di Chicago, in collaborazione con l'Università di Singapore, quindi un lavoro globale, se una moglie, una partner, guadagna più del marito, aumenta del 50% la probabilità che divorzino. A te è mai successo che tua moglie, che è una nota giornalista, direttore di un importante settimanale, Grazia, guadagnasse più di te? Ah, mia moglie ha sempre guadagnato più di me, anche quando non era direttrice, io non ero direttore di Il, e nel corso, diciamo, del nostro rapporto familiare, della rispettiva carriera, ha sempre guadagnato più di me. E quindi, diciamo, io mi trovo esattamente, non so quanto potrei provocare in questa situazione. Forse l'unica provocazione che posso fare è che stiamo parlando su Radio 24, del gruppo Sole 24 Ore. Io sono il direttore del mensile del Sole 24 Ore, adesso salgo su al quarto piano e chiedo al capo del personale un aumento di stipendio, certo. Esatto. È chiaro, ci sono situazioni e situazioni. Nelle situazioni in cui, per esempio, i due fanno tutti e due lo stesso mestiere, il giornalista, se c'è un periodo in cui lei guadagna più di lui, probabilmente la cosa viene più accettata che non se uno è abituato ad essere il breadwinner, quello che porta a casa i soldi, improvvisamente rimane senza lavoro ed è dipendente economicamente dalla propria moglie. Scatta nella mentalità del maschio una frustrazione difficile da controllare? Secondo me potrebbe scattare, ripeto, nel mio caso è un po' diverso, anche perché poi dipende anche poi uno cosa pensa delle capacità del proprio partner nel suo lavoro. Io per esempio sono convinto che lei sia molto più brava di me, molto più capace di me, quindi sono... Guarda che tu ad honorem da agente provocatore diventi una colonna portante di Nessuna è Perfetta, ti cambiamo di ruolo immediatamente con questa frase. Sì, no, però è esattamente così. Detto questo, credo che in alcuni casi gli scompensi possano essere evidenti. Detto questo, la cosa più importante, questa è per esempio una grande battaglia che il presidente Barack Obama ha fatto negli Stati Uniti, è proprio quella di portare il più possibile le donne a lavorare, a prescindere poi dalle differenze di stipendio rispetto al marito, perché insomma lasciare una parte consistente della popolazione di un paese senza lavoro e quindi senza stipendio è un danno per il paese e per il prodotto interno lordo del paese, non c'è dubbio. Abbiamo citato Barack Obama, che è stato un presidente giovane e energico, insomma è stata una svolta, non c'è dubbio, per gli Stati Uniti. E di svolte tu parli nel tuo ultimo libro, Non si può tornare indietro, cronache brillanti dell'Italia che cambia, pubblicata appunto da Marsilio, e ti concentri proprio su una svolta generazionale. Come si inseriscono le donne in questo contesto? Beh, le donne in questo contesto sono abbastanza, diciamo, in primo piano. Il ministro più importante del governo Renzi è Maria Elena Boschi, da alcuni addirittura considerata diciamo la prossima, il successore di Renzi. L'abbiamo vista in azione anche in Europa, lunedì scorso era a Parigi alla Sorbona, insomma se l'è cavata abbastanza bene. Una delle cose che ha fatto Renzi è, non è soltanto generazionale, è anche generazionale, ma è anche quello di aver cambiato un po' la cultura. Credo che per la prima volta un governo italiano non solo ha avuto, diciamo, la metà di donne nel Consiglio dei Ministri, ma anche in posti fondamentali. Quindi senti, Christian Rocca, per riprendere il titolo del tuo libro, Non si può tornare indietro, secondo te da questo si potrebbe tornare indietro in Italia? Non credo, non credo. Lo vedi anche nel centrodestra, uno dei nuovi leader è una donna, è la Giorgia Meloni. È una cosa che ormai è entrata nella nostra cultura, sia la parte generazionale sia quella di genere. Grazie a Christian Rocca, il suo ultimo libro, lo ricordiamo, è Non si può tornare indietro, cronache brillanti dell'Italia che cambia. Grazie al direttore del mensile Il, e buona domenica a lui e anche a chi ci ascolta, che può commentare le cose che abbiamo detto scrivendoci al 349-238-6666 oppure all'indirizzo mail nessunaperfetta@radio24.it. Su Twitter usate l'hashtag nessunaperfetta e noi vi rispondiamo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo è il momento della nostra Sunday Girl. Pronto? Eccola, conduttrice di successo, presentatrice, l'avete riconosciuta dalla risata inconfondibile. Eccola, la nostra Michelle Hunziker, benvenuta. Ma ciao a tutti, che bello essere una Sunday Girl. Non è male, porti, sì. Porti veramente dell'energia in questa nostra domenica. Senti, grazie. Michelle, nella prima parte del programma il nostro agente provocatore di questa puntata, che è il direttore del mensile Il, Christian Rocca, ci ha confidato di guadagnare meno della moglie, ma non si sente a disagio per questo. Nella tua vita professionale, che è stata di grande successo anche economico sin da quando eri una teenager, perché non dimentichiamo che il tuo primo contratto, quello in cui eri fotografata di spalle per quella meravigliosa comunicazione pubblicitaria che ti portò un sacco di soldini, cioè tu hai cominciato a guadagnare tantissimo sin da ragazzina. Ma ti è mai capitato di avere un partner che guadagnasse meno di te? Noi conosciamo solo i famosi che sono stati i tuoi fidanzati. Ma allora sì, è capitato diverse volte e nell'arco degli anni, diciamo che sicuramente, come tutte le donne che magari sono realizzate nel loro lavoro e indipendenti e felicemente, appunto, felici con il loro lavoro, ovviamente quando ti metti con un uomo che magari, appunto, è un pochino più meno realizzato e che magari anche guadagna un po' meno, deve essere molto molto equilibrato e intelligente l'uomo per riuscire ad affrontare una relazione con te, perché sennò succede che spesso, per esempio, si trasforma in violenza. Io ricordo che Michelle Hunziker è molto impegnata sul tema da sempre delle violenze alle donne, perché con Giulia Bongiorno ha creato l'associazione Doppia Difesa. Quanti casi vi capitano, no? Magari di donne che con fatica hanno mantenuto il loro posto di lavoro e hanno un compagno che invece l'ha perso e che li fa pagare il fatto di essere loro, sì, le donne. Allora, diciamo che anche solo nella quotidianità per dirti, anche solo una vacanza che uno desidera fare con il proprio compagno, allora tu dici facciamo una vacanza e tu dici al tuo compagno guarda non c'è problema, l'amore è anche fatto di momenti, cioè adesso questa volta la pago io, poi un'altra volta la pagherai tu, chi se ne frega, perché l'amore va oltre la materia. Ovviamente questa cosa ferisce molto l'orgoglio maschile, no? Certo. Se non è un uomo, appunto, come dicevamo, equilibrato, sicuramente si sente limitato, no? Ha dei complessi di inferiorità in quel momento. Può effettivamente, se la cosa è si protrae per tanto tempo e la cosa non si risolve, può sicuramente sfociare anche in violenza, magari verbale, psicologica, come tante altre situazioni. Cioè noi abbiamo questa fondazione da 8 anni, con doppia difesa vediamo storie di tutti i tipi. E sicuramente la fatica di capire che cos'è veramente l'emancipazione nella quotidianità delle famiglie porta spesso a violenza. Quello anche una violenza anche psicologica, questo molto molto, perché parte è da comune. Lì, prima di volare magari il primo schiaffo e alla prima avvisaglia di violenza, che è appunto psicologica, e poi magari al primo schiaffo bisogna proprio mettere dei paletti e dire senti caro mio, l'amore non è questo, se tu desideri andare avanti o ti fai curare, quindi magari facciamo un percorso psicologico insieme, oppure lasciamo stare. Perché certo, una volta che casca quella barriera di rispetto è finita. Quando eri piccola, hai raccontato in un'intervista, tuo padre era l'artista, quello che vi faceva giocare prima di andare a letto, mentre tua madre era quella che lavorava senza sosta. Quindi era lei la breadwinner della famiglia. Quanto ha influenzato questo le tue scelte professionali dopo? Beh, sicuramente molto. La mia adolescenza, diciamo che avevo un po' confuso i ruoli, e poi ovviamente è molto difficile, un adolescente deve appunto, come anche la mia figlia adesso, collocarsi, trovare un posto nel mondo, e deve trovarlo in modo tale, in un modo anche equilibrato, no? Il fatto che mia madre ha sempre portato i pantaloni in casa mi ha fatto diventare un'adolescente molto molto determinata, e avevo capito che non avrei mai voluto dipendere da nessuno, perché mi rendevo conto la fatica che faceva mia mamma, no? Tu sei sposata a un imprenditore che ha una grande tradizione familiare. Avete la separazione dei beni? Assolutamente sì. E quindi tu hai il tuo conto e lui ha il suo. Certamente, io lo trovo molto importante, anche appunto per i discorsi che facevamo prima. La separazione dei beni è una cosa che rilassa tutti gli animi, bisogna essere molto obiettivi e dire a se stessi che appunto l'amore va oltre la materia, e lui ci sarà sempre per me, io ci sarò sempre per lui. Nel momento in cui avrò bisogno, sono certa che non è la comunione dei beni o la separazione dei beni che fa la differenza. Però è anche vero che l'indipendenza ti dà una forza, un'autonomia, una forza psicologica. Per tutte e due, esatto. Non c'è dubbio. In modo tale da non dipendere mai da nessuno, come dicevo prima, mi è rimasta addosso questa cosa. Giustamente, c'è una ricerca pubblicata dalla società di consulenza finanziaria Noodle e poi ripresa dal Daily Mail, secondo la quale solo la metà delle coppie sposate, almeno nel Regno Unito, conosce i reciproci redditi, e le più restie a fornire informazioni sensibili sui propri conti in banca sono le donne. Secondo te perché? Perché? È molto, penso che sia una questione psicologica. Abbiamo vissuto noi donne per millenni una repressione, una frustrazione perenne nel non avere diritti, nell'essere schiacciate, nell'avere comunque vissuto determinate cose, che adesso in questo periodo, dove forse molte più donne riescono appunto a essere indipendenti e realizzarsi, uno dice senti sai che c'è, separiamo le cose, io faccio il mio, tu fai il tuo, non serve sapere quello che guadagno. Voi avete mantenuto anche su questo la vostra indipendenza, tu e tuo marito? Sì. Noi ci diciamo tutto, e siamo veramente, abbiamo una grandissima complicità. Però non è che parliamo molto di soldi, non è, parliamo tanto di progetti, non di soldi. Che, abbiamo che voglia una di cosa, fare una cosa, lo facciamo. Che è una cosa bella. Senti, invece tua figlia Aurora, che per la prima volta, credo, no, ha una sua indipendenza economica, perché ha partecipato con grande successo a X Factor, ma il suo primo stipendio l'ha discusso con te? No, anche lì ho cresciuto Aurora sempre con questa consapevolezza dell'indipendenza, di fare i suoi passi, e quando è stato il momento di fare questa scelta, insomma quando è stata scelta da X Factor per questa cosa, io l'ho messa nelle mani di professionisti che sanno esattamente quale può essere il suo valore. Come mamma mi tiro fuori assolutamente da questa questione. Michelle, nei giorni scorsi avete lanciato una nuova campagna che si è chiusa il 18 novembre, Ancora un'altra storia. Di cosa si tratta? È una campagna che noi facciamo annualmente con Doppia Difesa, spesso abbiamo trattato quasi sempre il tema violenza sulla donna tramite appunto un numero che la gente può fare su cellulare tramite SMS. Questa campagna qua invece ci siamo concentrati su un tema che è la famiglia, perché abbiamo veramente notato in tutti questi anni di fondazione che tanti papà e tante mamme sono venute da noi disperate che non riescono a vedere crescere i propri figli. È un morbo di cui si parla poco, questa perché cosa. Questi chiama, ragazzini non, non... Si chiama alienazione parentale. È una legge che è stata approvata in tantissimi paesi nel mondo, in Italia non esiste. Non esiste una sanzione per un genitore che allontana il proprio figlio dall'altro genitore con una campagna denigratoria perenne, succede spessissimo nelle coppie separate, facendo così una violenza pesantissima sul minore che già vive un trauma nella separazione. E che ha bisogno di entrambi i genitori, ovviamente. Ha bisogno di entrambi i genitori, però tante volte si parla semplicemente di una rabbia che la cioè donna può avere o si fa pagare la rottura del rapporto, esatto, tra il figlio e il genitore, una vendetta per l'abbandono magari. In Italia non è sanzionata, questo vuol dire che tantissimi papà, perché spesso capita ai papà e anche altrettante donne, non riescono a vedere crescere i propri figli, perché anche se tu in Italia hai un affidamento congiunto, ovviamente puoi vedere tuo figlio una volta alla settimana, una volta alla settimana e una volta ogni weekend, i weekend alterni, però se l'altra persona non te lo fa vedere, trova mille pretesti, scusa, sì, tu non vedi crescere, certo, il figlio, e non c'è nessuno che ti può proteggere da quindi questo. Lo ricordiamo, Ancora un'altra storia, Doppia Difesa, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno stanno introducendo un altro tema che è importante, quello del diritto a veder crescere i propri figli anche se si è padri o madri separati. Grazie Michelle per grazie essere stata con noi e buona domenica. Grazie, un bacio a tutti, ciao Maria. Ciao Michelle, grazie. Deborah, ti piacciono le favole? Ma certo. E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Che ne dici? Ah, bellissimo. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre daremo vita a una grande favola di Natale tutti assieme. Ogni giorno all'interno di Cuore e Denari io darò un incipit nuovo, a cominciare dal titolo. I grandi non dicono mai la verità. Vi piace? Molto. Io sono d'accordissimo. Così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24 e il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Così di giorno in giorno la favola crescerà e a Natale avremo una bellissima favola intera. Siete pronti? Nessuna è perfetta. Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento della domanda della settimana. E questa arriva da Stefania, una privilegiata, vedrete perché. Lavoro in una grande multinazionale di telecomunicazioni e dopo anni di sacrifici e impegni ho conquistato una buona posizione. Se dal punto di vista lavorativo sono soddisfatta, i problemi si presentano quando torno a casa. Mio marito, che è un pubblicitario, guadagna meno di me. Questo crea continue tensioni tra noi. Se parliamo di lavoro, lui dice che lo faccio perché voglio umiliarlo. Se non ne parlo, si arrabbia perché sostiene che io voglia tenere nascosto quanto ho sul mio conto in banca. Non so più a che santo rivolgermi. Stefania. Non so se i santi sono a disposizione, ma due super esperti sì, e cara Stefania, ti arriveranno, sono convinta, dei consigli preziosi. Gli esperti di questa domenica sono Brunello Cucinelli, stilista, filantropo, fondatore di un brand conosciuto in tutto il mondo, Brunello Cucinelli S.P.A., di cui è AD e presidente. Buona domenica, Brunello Cucinelli. Buongiorno e buona domenica a voi. E Luisa Todini, imprenditrice e oggi presidente di Poste Italiane. Allora, Brunello, secondo una ricerca della Booth School of Business nell'Università di Chicago, quando in una coppia è la donna a guadagnare di più, le probabilità di divorzio aumentano. Ma io onestamente non ci credo molto in questo senso. Intanto trovate in me un grande stimatore per la donna e vi dico perché. Perché la mia prima parte della vita vissuta in campagna, quindi provengo da questa cultura contadina, dove però mia madre, con la sua semplicità, era la vera padrona di casa. E questo devo dire che ancora onestamente mi emoziona. Quando siamo andati a vivere in città e mio padre è andato a lavorare in fabbrica, e mio babbo mensilmente riportava il salario e lo dava lei. Quindi, a tutti gli effetti, io sono cresciuto in una famiglia matriarcale, no? Certo. E qui ancora oggi al lavoro abbiamo 1500, siamo 1500, di cui 71% di donne, quindi... Nell'azienda Cucinelli c'è un 70% di donne. 71% di donne, sì, sì. Quindi la mia vita è con le donne, perché a casa ho la nonna, la moglie, le figlie, la nipotina, tutte donne, quindi ho questa predisposizione. Però io penso seriamente che intanto ho questa predisposizione umana per le donne, però io dico che prima di affrontare quel tema, Maria, che voi donne siete fortunatissime, perché in qualche maniera Dio vi ha dato questo grande dono del partorire. Quindi voi avete una condizione spirituale umana veramente assoluta, siete speciali, quindi io veramente vedo in voi donne un elemento di generosità, di generosità e di coraggio, e quindi il coraggio, l'accudimento, l'intuito. Se riesco a tradurre, quindi il consiglio che viene da Brunello Cucinelli è di andare oltre alla micro questione di chi guadagna di più nella coppia, sì, e guardare oltre. Luisa Todini, umbra come Brunello Cucinelli, imprenditrice di successo, oggi presidente di Poste Italiane. Una tipica donna che da sempre, probabilmente in una coppia, era quella che veniva considerata la breadwinner. Come si vive una condizione di questo tipo, Luisa Todini? Tanto buongiorno a tutti, Maria, e posso salutare Brunello, con cui ci sentiamo ma ci vediamo poco purtroppo, pur essendo umbri. Bene, ma nessuna è perfetta, vi mette in contatto, siamo contenti. Bene, bene, benissimo, sono molto felice, ma posso dire una cosa? Io ho ascoltato le ultime parole che ha detto Brunello, sono entrata proprio al momento, sì, giusto, perché quando lui dice che noi donne siamo madri da sempre, è una cosa che io ripeto sempre a mia figlia che ha 12 anni e mezzo, le dico: guarda che noi donne siamo geneticamente modificate e quindi siamo accudenti e madri in ogni caso, anche se poi per scelta o per altri motivi non lo diventiamo, ma in effetti questo è un grande onore, perché portare un essere umano nella propria pancia per 9 mesi è un qualcosa di irraccontabile per quanto è meraviglioso, ma è anche un grande onere. Perché? Perché poi le donne sono accudenti in tutto, lo sono anche in azienda. Allora, tornando al tema proposto dall'ascoltatrice Stefania, cioè esatto, lei guadagna più di suo marito e questo crea una frizione, una tensione, perché, come sostiene anche una relazione dell'Università di Chicago, le coppie in cui la donna guadagna di più sono a rischio di divorzio in misura maggiore rispetto alle altre. Allora, guarda, io appartengo a una generazione, mi avvicino ai 50 anni, quindi una generazione che è una via di mezzo, forse anche l'ascoltatrice, e questo per introdurre il tema che è un po' culturale, cioè la generazione a cui appartengo io e che viene ancora da un mondo in cui è l'uomo che pensa all'accudimento economico, sì, che in qualche modo detta le regole, che decide di dare, sembra che dica una cosa banale, ma la paghetta al figlio maschio o alla figlia femmina, quando per le famiglie che possono permettersi naturalmente, quando iniziano a crescere è sempre un po' divisa, perché magari è già il ragazzino che offre il gelato alla ragazzina, cioè è culturale questo. Allora bisogna superare questo di scoglio, perché bisogna insegnare ai nostri figli, e qui la scuola ha una grandissima responsabilità, che è la coppia che è grande. Allora, nella coppia grande che cresce, che ha successi, che possono essere successi di soddisfazioni anche economiche, non è importante se l'uomo o la donna guadagna di più, perché si mette in comune. Nel momento in cui si sceglie di mettere in comune la vita, a maggior ragione si mettono in comune i beni economici, che possono essere stati ereditati, consolidati, guadagnati da soli, ma si mettono in comune per un progetto di vita. Oggi ancora il progetto di vita così condiviso, lo riconosco, nelle coppie non è arrivato a questi livelli di avanzamento culturale, quindi è vero quello che dice la ricerca, che a volte le coppie possono essere possono andare in crisi perché la donna diventa leader. Pensate che secondo una ricerca ripresa dal Daily Mail il mese scorso, soltanto la metà delle coppie sposate conosce i reciproci redditi, e sorpresa, le più restie a fornire informazioni sui propri conti in banca sono le mogli. Però Brunello Cucinelli, l'idea sarà che siete tutti umbri, vicini a San Francesco d'Assisi, l'idea che è la coppia che va tenuta presente, non il singolo e l'individuo, mi sembra che sia un po' in linea anche con l'idea di comunità, di diciamo ambiente allargato che con l'azienda Cucinelli voi perseguite da tempo. Avete un contatto anche con i problemi, diciamo, familiari dei vostri dipendenti, di chi lavora per voi? Sì, da noi questo è molto forte, devo dire che è anche molto umano, perché io penso alla fine due o tre cose di voi donne. Guardate, voi lavorate più di noi uomini, non c'è dubbio, però in Italia io onestamente non vedo questo grande differenziale di discussione sia di stipendio e né di stima. Forse anche perché siete leggermente più straordinari di noi, no? Ma non a caso noi in Italia, io sostengo sempre che siamo forse il miglior stato sociale al mondo. Siete più acute, vi affezionate al lavoro più che noi uomini, siete più sensibili, quindi io credo che siete davvero un po' speciali voi donne, e non trovo in Italia tutto questo studio e tutto questo differenziale che è stato fatto da qualcun altro. Cioè, a casa mia moglie, cioè, la nostra è una cultura matriarcale, quindi io non ci vedo queste, anzi la vedo molto molto positiva. Un punto di vista di sicuro ottimismo è insomma, Cucinelli è il nostro, sarà il testimonial delle donne italiane, almeno per le italiane. Però in chiusura, avviandoci alla chiusura, Luisa Todini, secondo la nostra ascoltatrice guadagnare di più crea tensione, ma è anche vero che normalmente le donne guadagnano meno. La scorsa settimana la Commissione europea ha quantificato il gender gap a livello di stipendi in Europa. Diciamo che per le donne le cose non vanno così bene. Alle Poste gli stipendi tra uomini e donne hanno questo gender gap? Allora, intanto vorrei chiarire un punto. Quando si fanno le statistiche si fa un conto totale di quelli che sono gli stipendi, no? All'interno di un'azienda, all'interno di una comunità o di uno Stato intero. Le donne hanno un problema, non è che a parità di livello di mansione guadagnano meno, è che le donne, per il fatto che hanno attività di cura, perché vanno in maternità e poi scelgono di avere un orario part-time e quindi di non fare carriere, questo è un altro problema importante, arrivano a guadagnare meno molto spesso proprio perché lavorano meno, ma perché hanno meno opportunità di poter restare di più sul luogo di lavoro, e quindi nel momento in cui io rientro dalla maternità e accetto un part time, ovviamente quel lavoro meno e mi pagano di meno, certo. Okay. Quindi questo è assolutamente importante, perché non esiste azienda risposte? Ovviamente no, perché l'azienda più grande in termini di forza lavoro, il 53% sono donne, noi addirittura diamo il 100% della retribuzione in maternità quando per legge è previsto l'80%, quindi abbiamo un'attenzione enorme. Ma nessuna azienda, se non forse alcune piccolissime che sfuggono anche al fisco e quindi sono sconosciute, si permettono di dare uno stipendio diverso a una donna. È proprio che le donne scelgono di fare un'attività minore perché hanno attività di cura. Quindi il tema è una rete di supporto. Tornando al tema principale della nostra chiacchierata, è che le donne spesso hanno delle incrinature nella coppia, ma forse perché culturalmente le donne stesse non sono pronte a fare l'uomo, tra virgolette, in famiglia. Allora, non è solo un problema di dover raccontare o di non vivere il successo in maniera congiunta, il successo di coppia, è la donna che deve fare un salto culturale nel non doversi forzatamente sentire accudita dal proprio uomo. Cioè, la coppia bella, la coppia moderna, la coppia che guarda al futuro, è quello che io cerco di raccontare a mia figlia, è la coppia che davvero condivide tutto e che quindi non deve pretendere dall'uomo un certo tipo di atteggiamento. Nel momento in cui anche la donna supera questo, si supererà le tensioni e poter... Esatto, io ho solo un esempio che è stato citato più volte. Angela Arendt ha ricevuto 68 milioni di euro come premio in Apple, da Apple, e ha un marito che felice ha dichiarato: io guadagno molto meno e mi dedico alla casa. Allora, questo è un esempio enorme, stratosferico, perché stiamo parlando di 68 milioni di euro, ok? Ma riportato anche su cifre più modeste, diciamo, su cifre decisamente più modeste. Questo è il modello. Le leggi sui congedi parentali, sul fatto che culturalmente se un padre chiede di stare a casa per accudire il figlio non deve essere preso in giro dai colleghi. Perché? Perché vuol dire che il papà ha voglia di accudire il proprio figlio, e non vuol dire diventare un mammo, no, vuol dire che i figli si fanno in due. In chiusura, Brunello Cucinelli, per l'esperienza personale, si tratta di superare le paure dettate dall'individualismo di ciascuno di noi e guardare, ripeto, più alla vita di coppia nel suo insieme, come diceva Luisa Todini, che non al successo soltanto individuale? Ma io credo che già questo sia in essere. Io sono convinto del valore umano della donna, che dai benefici che il mondo avrà e ha per questo sentimento della donna. Poi diciamoci la verità, io più che altro mi preoccupo con mia moglie e con le figlie di condividere gli stessi sogni, libertà, giustizia e progresso, no? Di quello di non volgere le spalle alla povertà. Ma io credo che la donna ha raggiunto da sempre, perché questa è stata l'esperienza di mia mamma, la donna ha un ruolo importantissimo e oggi nel rapporto familiare abbiamo lo stesso identico valore. Alla fine io sono innamorato delle donne perché siete solo leggermente più sensibili di noi, leggermente quel tasso del dolore, della sopportazione più alto, e forse soprattutto avete avuto il grande dono che Dio vi ha dato di partorire. Questo è il vantaggio che ha la donna nei miei confronti, altrimenti il resto io vi sentite totalmente, vera. Totalmente allo stesso. Ma sì, anche qui, no? Solo degli stipendi parlavate prima, però non a caso in Italia è poco più che il 5% questo differenziale, e probabilmente dipende esclusivamente da qualche ora di straordinario in più che fa l'uomo, unicamente perché può avere un'ora disponibile che dedica in meno alla casa, no? Quindi io sarei molto sereno e dico a voi donne, abbiamo una grande stima di voi come esseri umani. Ecco, allora è una domenica che si chiude con queste parole di spirito francescano e pacifico dell'Umbria di Luisa Todini e di Brunello Cucinelli, che ringrazio entrambi. Buona domenica a voi e noi ci sentiamo tra pochi secondi. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili@radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Avete sentito prima i nostri esperti di questa puntata, Brunello Cucinelli, che dice: sono convinto che ci sarà solo beneficio dal futuro delle donne e sarà positivo per tutti, ma la presidente di Poste Italiane, Luisa Todini, forse meno ottimista, dice: guardate che sono le donne che non sono culturalmente pronte a fare l'uomo della coppia, vogliono farsi ancora accudire e si sentono in colpa se guadagnano di più. Come uscirne e che risposta dare alla nostra ascoltatrice Stefania, che ha posto questo tema? Coach di questa settimana è Roberto Dincau, fondatore di Lang & Partners e anche cacciatore di teste. Buona domenica Roberto Dincau, che cosa possiamo dire alla nostra Stefania? Buona domenica a tutti, grazie di questa opportunità di parlare. C'è una grande verità, ecco, una grande verità che è questa, che è una riflessione che ha fatto una studiosa di Cambridge, che è Jacqueline Scott, che dice che le nostre vite emotive sono cambiate molto meno velocemente delle nostre vite lavorative, e questa è una grande verità, nel senso che è verissimo che negli ultimi 40 anni, parlo dell'Italia, perché noi stiamo parlando dell'Italia, negli ultimi 40 anni le donne si sono affacciate al mondo del lavoro. È anche vero che ci vorranno probabilmente i prossimi 40 anni per sistemare, come dire, il rapporto tra i ruoli e problematiche di questo tipo. Quindi, diciamo, questa problematica di coppia. Ma che deve fare Stefania? Parlarne con suo marito o far finta di niente? Fare in modo che questo fatto che lei guadagna di più passi quasi sotto traccia? Allora, questo tema, diciamo, è molto comune e capita più comune di quanto non si pensa. Ci sono molte donne oggi breadwinner che guadagnano più dei loro mariti e gli atteggiamenti sono duplici, cioè il marito si sente in alcuni casi totalmente defraudato, in altri casi invece si sente molto in una zona di comfort e fa il mammo o si occupa delle cose che pratiche. Cosa si consiglia allora? I consigli pratici che potrei dire sono innanzitutto parlarne assolutamente, perché una coppia bisogna parlare, le cose non dette pesano di più di quelle non dette. Io posso dire alcune cose pratiche, ad esempio, non so, qui il denaro è la disparità tra di loro, non so, 3 conti in banca, un conto personale di lei, conto personale di lui, conto per le spese comuni, alternarsi nei ruoli, cioè non fissarsi, polarizzarsi nel fatto che tutta la gestione pratica del budget stia nelle mani o di lei o di lui, magari un mese uno, un mese l'altro, rassicurare il partner sul fatto che anche se si ha più soldi, più successo, si resta comunque delle donne, questo è un tema molto importante, no? Si resta comunque delle donne e addirittura, ecco, potrebbe essere, secondo me l'ascoltatrice potrebbe dire al partner che fai pubblicitare, se non sbaglio, guarda, potresti cogliere questa opportunità del fatto che io ho una certa sicurezza per fare come coppia magari un progetto nuovo, che ne so, lui potrebbe mettersi in proprio o fare il creativo e uscire da dove, cioè il fatto che ci siano delle risorse di coppia più importanti può permettere anche di fare un progetto di coppia alternativa. L'importante è fare un progetto insieme, esatto, come diceva anche Michelle Hunziker all'inizio della nostra puntata. Quindi, secondo il nostro coach, una donna che guadagna di più però non deve rinunciare a fare la donna. Ma Luisa Todini ci ha appena detto le donne devono smettere di farsi accudire. Non è una contraddizione? Sai che c'è un parere, diciamo, che dice che statisticamente le donne di successo non tendono a sposare un uomo non di successo, cioè c'è purtroppo, qui difendo anche il ruolo maschile, noi maschi abbiamo, ci portiamo dietro questo cliché, ce lo portiamo dietro, che siamo un po' il maschio cacciatore che accudisce la famiglia e la casa, e anche le nostre donne hanno però un po' quest'idea. Come no, certo. C'è assolutamente questa cosa, quindi statisticamente, allora, nel caso concreto non voglio essere negativo, però io ho l'impressione che questa coppia abbia dei problemi di coppia che vanno al di là del caso specifico, perché mi sembra che questo marito sia molto arrabbiato qualunque cosa lei faccia. Ecco, io se fossi l'ascoltatore, il consiglio che posso dare a lei è rassicurare questo marito sul fatto che anche se lui guadagna di meno, tra virgolette, non è uno sfigato, ecco. Rassicurarlo su un lato molto importante, scusate se lo dico, ma il sesso, cioè anche lì, no? Tante volte una donna che ha moltissimi impegni e delle giornate lavorative stressanti, io ad esempio sono il coach di donne amministratore delegato che mi dicono, sai, però io arrivo a casa alle 9 di sera e sono stravolta dopo 12 ore di riunione, di cose, di call. Può certo essere il Viagra rosa la soluzione. Ecco, abbiamo fatto una puntata proprio su questo, perché una donna stremata non si può imporre anche il Viagra. Non si può fare la geisha poi alle 21:30 di sera. Ecco. Però purtroppo io dico che nonostante tutto, perché poi vedo casi invece appunto di donne di successo che hanno mariti che le tradiscono, questo molto di frequente. Perché? Perché è inutile. Allora, i due collanti di coppia, secondo me, sono da un lato il progetto, dall'altro, inutile negarlo, c'è anche l'espressione dell'intimità, che non è banalmente far l'amore tutti i giorni, ma l'intimità. Ecco, quando l'intimità si perde perché si è troppo presi dai propri impegni, quello è un campanello d'allarme. Io consiglio a donne molto impegnate di dire al proprio marito, dai, facciamoci un weekend romantico, due giorni a Parigi o alla Pallo, in base alle possibilità economiche, però per noi, senza figli, ecco, c'è la coppia, deve ritrovare i suoi spazi. Io consiglierei a questa coppia di ritrovare i propri spazi, perché mi sembra che siano stati... E di fare un progetto insieme, un progetto anche minimo, ma insieme. Grazie a Roberto D'Incau, il nostro coach di questa domenica, e grazie a voi che ci avete seguito. Nessuna Perfetta torna domenica prossima.